La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qua in diretta di studio di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia in questo venerdì 10 di giugno, sono le 16.30 primi 46 secondi, l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per intervenire sul tema che vi dico subito, 800 24 00 24, per la telefonata ovviamente, per intervenire in diretta, per il 349 238 6666 invece i vostri sms. Di cosa parliamo oggi? Vi inviterei a intervenire per dirci come la pensate su alcuni dati che vi spiegheremo in lungo col nostro ospite, ma che vi sintetizzo così. Questo è un paese dove tutti, io per primo, sia pur articolando, siamo convinti di pagare troppe tasse, e ne paghiamo tante, perché se vediamo il totale delle entrate pubbliche tra entrate tributarie, contributi, one-off patrimoniali, entrate finanziarie, arriviamo al 48% del PIL, quindi ne paghiamo tante, e ne paghiamo tante perché le abbiamo alzate sui redditi, le abbiamo alzate sui patrimoni, classicamente quelli immobiliari, sia pure con i mutasi, con gli interventi del governo quest'anno, che il 16 giugno verranno ricordati a tutti poche ore prima del voto, però abbiamo poi a fronte di riduzioni tipo il bonus 80 euro abbiamo aumentato le imposte su le cosiddette rendite finanziarie, cioè sul risparmio, su i fondi previdenziali e le casse previdenziali private, e abbiamo anche nei tempi del governo Monti alzato le imposte indirette con l'IVA. Sapete che l'impegno del governo è non far aumentare di nuovo per l'ennesima volta l'IVA e le accise l'anno prossimo, o meglio l'IVA, perché le accise spesso si ritoccano comunque su alcuni generi di prodotti. Detto questo, se sono tante però come sono distribuite? Perché il governo, lo sapete, lo fa ripetere ai giornali tutti i giorni, con la prossima legge di stabilità annuncia una serie di interventi, li vedremo, però intanto li annuncia, li fa scrivere già dall'inizio dell'anno, che sono tutti parametrati sulla fascia bassa dei redditi, perché così declinano l'intervento, se ci sarà, perché in teoria da programma era nel 2018 sugli 80 euro, perdonatemi, sull'IRPEF. Avete visto che anche i rimborsi a chi ha perso soldi con le obbligazioni bancarie sono concentrati su a chi ha meno reddito. Io non capirò mai cosa c'entri se uno è stato fregato da una banca, se viene ammesso automaticamente al ristoro di quello che ha perso con le obbligazioni, cosa c'entri con il reddito, francamente. Questa però è la mia opinione. Allora, tutti diciamo così, siamo convinti in definitiva che poi sia giusto, no, concentrare gli interventi sulla parte bassa della piramide dei redditi, ma questa parte bassa in realtà quanto pesa sul totale dei contribuenti italiani? Cioè, chi paga quanto nel nostro paese a oggi? Perché prima di decidere che cosa è meglio, a chi concentrare quel poco di interventi che ci saranno, non ci illudiamo, ma ce ne saranno, il governo li promette, noi vedremo se finanziati in deficit o a copertura di spese come preferiremo, ma ci saranno. Ma in realtà, quando parliamo dei redditi bassi, quanto pagano davvero di IRPEF, per esempio, rispetto a ciò che poi lo Stato dà indietro? Ecco, allora, l'ospite di oggi, Alberto Brambilla, è il presidente del Centro Studi di Itinerari Previdenziali. Qualche giorno fa, forse qualcuno l'ha visto sul Corriere della Sera, il 6 giugno, il Corriere della Sera ha sintetizzato uno studio che ha fatto appunto il Centro Studi di Itinerari Previdenziali, rielaborando in classi di reddito rispetto a gettito ricavato dell'IRPEF l'intera piramide dei contribuenti, cioè della popolazione italiana. E quindi vi faccio la domanda: se vi dicessi, uso due sole cifre, che praticamente la metà degli italiani dichiara redditi che sono pari o a zero o comunque poco sotto o poco sopra la soglia dell'incapienza, e quindi questo significa praticamente zero imposta pagata, e che a loro tutti gli altri contribuenti destinano 43 miliardi di sola sanità sui 110 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, visto che appunto loro non contribuiscono con l'IRPEF. Allora, voi capite che quasi la metà degli italiani che dichiara redditi o zero o comunque poco sotto o poco sopra la soglia dell'incapienza, la metà è una cifra pazzesca, eppure è così, a vedere la stratigrafia delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, cioè quindi relative all'anno d'imposta di reddito 2014, quasi la metà. Cioè una situazione da paese, non dico in via di sviluppo, ma nella transizione tra terzo mondo e via di sviluppo. Punto numero uno. Poi, quando diciamo che bisogna concentrare gli interventi sulla parte bassa, questa è la parte bassa, ma è la metà degli italiani che già in queste condizioni, cioè che paga praticamente nulla o quasi di IRPEF. Poi naturalmente è chiaro che le imposte indirette, l'IVA, le accise le pagano e così via. Però di IRPEF, parliamo di IRPEF. Se vi dicessi, per quelli che vogliono aumentare la progressività, che in realtà il 2% dei contribuenti al reddito più elevato, il 2%, paga il quasi 17% del totale delle imposte. Le vogliamo aumentare ancora di più? Non vi sembra abbastanza? Allora, queste sono solo alcune delle cifre per capire come la pensate voi. Siete convinto di vivere in un paese profondamente ingiusto perché chi ha troppo paga poche tasse? 2% paga il 17% dell'IRPEF, quasi la metà praticamente non paga nulla dell'IRPEF. Ripeto, quasi la metà. Io lo so che questa cifra vi farà sobbalzare, crederete che non sia vera e così via. Infatti io mi limito a darvi questa sintesi per farvi telefonare, però la spiegazione in lungo e in largo ce la dà il professor Brambilla. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, un po' di pazienza, Brambilla, perché naturalmente non avendo una lavagna luminosa che ci ascolta in radio rischia di perdersi dei numeri. Però ricapitoliamo un pochino il vostro studio. Io mi sono limitato a fare due lanci per colpire l'attenzione di chi è in ascolto per indurlo a telefonare. Però che situazione ricaviamo complessivamente? Allora, analizzando il totale delle dichiarazioni dei redditi 2015, quindi redditi 2014 per scaglione di reddito. Però intanto ha fatto un quadro molto molto preciso e quindi già abbastanza esaustivo di tutto. Detto questo, noi ci siamo limitati a prendere tutti i innumerevoli fogli Excel che il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate producono sulle dichiarazioni IRPEF, comprese le addizionali, e abbiamo cominciato a farne una stratigrafia per vedere per classi di reddito e per numero di contribuenti come vanno le cose. Intanto una prima e anche poi per numero di cittadini, cioè di popolazione, perché i contribuenti non è che le posizioni fiscali in Italia sono poco più di 40 milioni. Lei dice, esatto, che a pagare, a versare qualcosa sono in realtà 30 milioni, poco più di qualcosa, vedremo come, però poi ci sono dietro 60 milioni di italiani. E infatti noi abbiamo fatto la graduale, abbiamo preso il numero delle dichiarazioni che peraltro nel corso degli ultimi 4 anni sono sempre andate calando, prima eravamo 41,5 e poi siamo scesi progressivamente. Abbiamo 60 milioni e mezzo di abitanti, per cui a ogni abitante, praticamente a ogni dichiarante, competono circa 1,49 abitanti. Su questa base abbiamo cominciato a vedere le dichiarazioni dei redditi e le sorprese sono state tante, anche perché noi partiamo da un punto di welfare piuttosto alto, piuttosto elevato, in quanto in totale, come diciamo dello studio, noi paghiamo sempre nell'anno di imposta 2014, per fare un affronto corretto, 439 miliardi tra pensioni, sanità, assistenze e tutto quanto. Allora, questo è il costo della spesa dello Stato. È la spesa dello Stato. E quanto, quindi, quanto incassa però lo Stato tra IRPEF, contributi eccetera a fronte di questi 439 miliardi? Allora, per quanto riguarda i contributi sociali sono 172 miliardi e mezzo. Riguardano prevalentemente l'assetto pensione. Penso. Poi c'è da finanziare la sanità e l'assistenza che valgono altri 200 e rotti miliardi, e questi teoricamente, siccome sono finanziati dalla fiscalità generale, dovrebbero essere coperti quasi integralmente dall'IRPEF e dall'IRAP. In realtà l'IRPEF è 167 miliardi, ma dobbiamo detrarre i circa 6 miliardi di euro per il famoso bonus da 80 euro e quindi l'IRPEF versata è 160 miliardi in totale. Tenete conto che su questo totale poi c'è una piccola parte di addizionali regionali e una parte ancora più bassa, 4,4 miliardi di addizionali comunali. Quindi in sostanza. Comunque, se noi ai 167 miliardi dell'IRPEF leviamo i 6 miliardi del bonus 80 euro, andiamo a 160 e poi leviamo i miliardi sommati tra l'addizionale regionale e quella dell'addizionale comunale, ne restano 150 in parole. Eh sì, diventa sotto un certo punto di vista complicato finanziare il nostro welfare, anche perché abbiamo circa la metà della popolazione che di fatto paga il 25% della popolazione italiana paga un IRPEF pari a 54 euro, che dedotto gli 80 euro di bonus va a 40, gli altri ne pagano circa 300, insomma per la metà della popolazione noi dobbiamo trovare un'altra metà della popolazione che paghi circa 43 miliardi solo per la sanità, cioè i 1850 euro pro capite della spesa sanitaria, poi c'è tutto il resto perché c'è la scuola, la sicurezza, le strade, il funzionamento, la macchina pubblica, quindi il problema vero è siamo un paese con un welfare molto molto avanzato ma delle dichiarazioni dei redditi che sono modeste. Lei stesso faceva il conteggio e diceva insomma se io vado a vedere il 4,13% dei cittadini paga il 33% delle imposte, saliamo leggermente all'11% per arrivare al 52% delle imposte, che a me come progressività mi sembra insomma più che elevata, no? Tremenda, perché se voi andate a vedere il grafico, che peraltro è uno degli unici grafici che pubblica il Ministero dell'Economia, vedete praticamente che una gran parte della popolazione ha un grafico che è a barre, quindi la barretta è proprio piccola, piccola, piccola, piccola, ma la progressività è spaventosa e d'altra parte lo dicono le cifre. L'11,28% della popolazione, ma sono anche i numeri, cioè coloro che dichiarano un reddito sopra i 300.000 euro sono praticamente 31.000 contribuenti, ma addirittura quelli che lo dichiarano sopra i 100.000 sono 345.000. Se faccio il conto dei SUV che girano in Italia, non riesco a, cioè sono molti di più di questa cifra, quindi è evidente che c'è qualcosa che non va. Più che qualcosa direi, perché naturalmente chi come me è schiantato, io sono un povero autonomo eccetera eccetera, ma non posso assolutamente, anche per i controlli a cui sono sottoposto ci mancherebbe altro, ma comunque io pago una sleppa tale che francamente condivido la posizione di molti autonomi, perché moltissime delle posizioni fiscali che sono diminuite, come si vede, mi lasci dire, anche dei numeri che dall'anno scorso hanno incominciato per trimestre l'Istat ci dà sul regresso progressivo di centinaia di migliaia di posizioni di lavoro autonomo, molti battono le mani dicendo ecco qua le finte partite IVA spariscono, io invece batto le campane a morto, perché un paese che sta riducendo di centinaia di migliaia i lavoratori autonomi è un paese che si sta sparando secondo me sui piedi, al netto delle finte partite IVA, del lavoro parasubordinato a cui il Jobs Act ha dichiarato guerra eccetera eccetera, tutto quello che volete voi, ma io non inneggio certo a un paese che perde centinaia di migliaia di posti di lavoro autonomo, di chi aveva scommesso la propria vita, la propria vita su se stesso, la propria professionalità, la capacità di intrattenere rapporti con fornitori e clienti. Mi perdoni se ho fatto questo inciso, ma è un dato confermato anche dalla nota Istat rilasciata ieri sul primo trimestre 2016, che vede in totale, cari ascoltatori, lo so che sui giornali avete letto cifre roboanti, 300 e rotti mila occupati in più, nel primo trimestre di quest'anno 2016, se andate a riprendervi a leggere al di là della gonfiatura demagogica, sulla fine dell'anno scorso, in tre mesi il totale degli occupati italiani è aumentato del solo 0,1%, e questo più 0,1% è fatto da un aumento considerevole anche nel primo trimestre, come nei trimestri precedenti per via Jobs Act, della decontribuzione degli occupati dipendenti a tempo indeterminato, che fanno più 0,4, una diminuzione più contenuta del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, e invece un meno 0,7 di lavoratori autonomi. Io non riesco a brindare per questo, però mi scusi se l'ho detto, ma questo spiega a gran parte anche della diminuzione delle posizioni fiscali che anno dopo anno, dal 2012 abbiamo perso 600.000 contribuenti in Italia, che a me pare una cifra pazzesca, o no? Sbaglio io, Brambilla? È altissima. Quindi assolutamente. No, tanto più che se noi andiamo a vedere coloro che dichiarano redditi zero, qualcuno anche negativo, fino a un massimo di 7.500 euro, quindi diciamo una mediana intorno ai 3.750-4.000 euro, sono oltre 15 milioni di italiani, il che vuol dire che se io divido questi 4.000 rotti euro per 12 mesi, non sono nemmeno una pensione integrata al minimo, quindi mi risulta complicato in un paese come il nostro vedere che c'è una quantità, quindi quasi sono 20, quasi 28 milioni di italiani che alla fine dispongono di soli 500 euro mal contati al mese. Aspetti un secondo che dobbiamo un chiarimento a molti dei nostri ascoltatori che sono scatenati dicendo: ma che cacchio state dicendo? Voi state parlando solo di chi fa il 730 eccetera eccetera, vi siete dimenticati i milioni di lavoratori dipendenti che hanno la ritenuta alla fonte. No, cari ascoltatori, spieghi un pochino, Brambino. No, perché la maggior parte poi di queste dichiarazioni sono per i lavoratori dipendenti e quindi ci sono dentro tutti, noi abbiamo le tre categorie, lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. Quindi e cari autonomi, ascoltatori, le cifre che vi abbiamo dato e che vi dice Brambilla comprendono tutte le 40 milioni di posizioni fiscali, di cui 30 milioni di chi paga qualche cosa, tutte, ecco, dica. E quindi diciamo che la componente lavoro dipendente è evidentemente quella più numerosa, perché essendo, come dice la parola stessa, lavoratore dipendente, ha una trattenuta alla fonte, quindi anche magari desiderando ardentemente di poter frodare un pochettino al fisco non lo possono fare. La componente pensionati è di molto ridotto ovviamente, perché su 16.300.000 pensionati ce ne sono circa 8.300.000 che sono assistiti totalmente o parzialmente dallo Stato e quindi su queste prestazioni non ci sono contribuzioni fiscali, per cui è evidente che il grosso peso si scarica sui pensionati che hanno una pensione intorno ai 1.500-1.600 euro e più ovviamente, e sui lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi sono molto molto molto calati, diciamo che su un'ipotesi di lavoratori indipendenti che sia l'Istat che Censis valutano intorno ai 7-8 milioni, noi abbiamo che i dichiaranti con qualche cosa, con almeno un euro di dichiarazione, sono poco più di 2 milioni, quindi è evidente che c'è un qualche cosa, lo rilevavamo anche l'altro giorno, adesso è un esempio, ma la sanità integrativa, se noi avessimo le casse di assistenza sanitaria integrativa che quindi hanno una tracciabilità, dei 34-35 miliardi che vengono spesi di tasca propria dagli italiani per le cure, probabilmente ne censiremmo molto più di 4 tracciabili. Il problema è che evidentemente quando qualcuno sta male, probabilmente l'ultimo dei suoi pensieri è chiedere la ricevuta fiscale. Ecco. Allora, quindi, un secondo solo, torniamo tra un minuto perché c'è l'informazione sul traffico. La versione di Oscar. Allora, cari ascoltatori, stiamo parlando di questa analisi per scaglioni del totale delle 40 milioni di posizioni fiscali, ripeto, 30 milioni di chi versa, 30 milioni di posizioni di chi versa almeno qualche cosa, ma la realtà che ci arriva è terrificante, cioè l'equivalente praticamente di metà della popolazione italiana che ha zero redditi bassissimi e quindi non è in grado di contribuire se non pochissimo. In prospettiva, come facciamo noi a pagare le pensioni a 10, 11, 12 milioni di soggetti che non dichiarano nulla e finirlo, cioè non hanno un reddito e quindi non pagano i contributi, cioè questa è la devastante condizione del nostro paese. Noi ci possiamo illudere, possiamo prepensionare come vuole fare il governo eccetera eccetera, ma questo problema, cioè lo squilibrio nei conti attuariali della sanità e della previdenza italiana in questa condizione fotografata dal lavoro che ha fatto Brambilla e i suoi itinerari previdenziali, è una roba, a mio giudizio, posso sbagliare, terrificante. Qui hai un furto ai giovani clamoroso, milioni di pensionati che stanno in condizioni terrificanti. Questo è quello che penso io. Magari mi sbaglio, non so come la pensate voi. Silvano da Lucca, come la pensa Silvano? È caduta la linea di Silvano. Nicola da Roma, Nicola, prego. Sì, buongiorno. Premetto che sono, diciamo, un alto contribuente. Sì. Cioè di quelli che non so se lo 0,5 o l'1% del totale. E ho, al di là delle statistiche interessantissime in Italia, avevo ben coscienza di quello che accadeva e che accade. Cioè io ho un reddito fisso, ovviamente pago tutto, tanto per essere chiari mi sollazzo anche nel pagamento di 4.000 per un appartamento euro di IMU all'anno a Roma, di 140 metri e in zona sud, manco bellissimo, molto meno delle case vicino al Colosseo. Poi lei, essendo a Roma, è alle sovraaliquote comunali e regionali. Sì, ma l'appartamento comprato ovviamente non da un ente, ma da un costruttore. Sì, vabbè, vabbè, comunque, detto tutto questo... Sono particolari che risparmio, ovviamente. Detto questo... comune conoscenza, ma forse sarebbe il caso anche di fare qualche minimo controllo incrociato. Sono in mezzo al traffico, è una bellissima BMW 318, ecco qui un altro favoloso e di questo e a questo faremo. Io sono su una Migra se può interessare. No, no, ma su questo faremo la domanda, ecco, adesso a Brambilla. Bruno, troppo, ecco, Bruno da Torino, prego Bruno. Buondì. Allora, io sono un altro dipendente fisso, come sempre, supero i 100.000 euro lordi l'anno, è 42 anni e mezzo che lavoro, e vorrei sapere come si fa a essere in queste condizioni. Molto semplicemente la questione è esprimibile in due parole: se la gente pagasse più le tasse. Io non ho il SUV, nonostante sia un buon stipendiato. C'è gente che va a prendere il figlio a scuola, amici di mio figlio vanno là e sono indipendenti, non dichiarano una lira e vanno in giro per il mega sud. Mio figlio, l'altro, quello grande, va all'università, il sottoscritto paga 3.200 euro di tasse all'anno, perché l'ISE ovviamente non c'entra più niente. Non c'è, certo, lei non è... certamente, però ci sono fior fior di signori che sentiamo... non pagano una lira. Sentiamo che ci dice Alberto Brambilla su questo invocare ovviamente controlli incrociati, il conflitto di interessi. Io il conflitto di interessi l'ho spiegato mille volte, però insomma, lei che dice su questo? Beh, intanto bisognerebbe che la nostra agenzia delle entrate cominciasse a fare un po' come fanno nei paesi stranieri, cioè se una persona di 31-32 anni che ha un benedetto codice fiscale e viene incrociata con la dichiarazione di redditi e non ha mai fatto una dichiarazione di redditi, in Germania lo chiamano per capire se si è dimenticato o non gli hanno spiegato bene che se ci sono dei redditi vanno dichiarati, e quando l'agenzia tedesca chiama, visti quanti sono gli evasori fiscali nelle galere tedesche contro lo zero degli italiani, è evidente che un po' di paura ce l'hanno. Per cui la prima cosa che io consiglio è, se una persona, come accade in Svizzera, a 31-32 anni non ha mai fatto la dichiarazione, che lo si chiami per capire di che cosa vive. Non vorrei che in gran parte dell'Italia si scoprisse che vive di cose che sono poco, come dire, dichiarabili. Sì. La seconda cosa è il contrasto di interessi. È evidente che anche un lavoratore che ha un reddito 1.250 euro netti, se gli capita una spesa da 1.000 euro e deve piazzarci il 22% di IVA, e se chi... È chiaro che accoglie la proposta di chi dice paghi meno se non lo fai. Ecco. Paghi 900 anziché 1.200 e risparmiato 300. Ora non ci vuole un laureato a Harvard per capire che in Italia abbiamo 23 milioni e mezzo di famiglie circa e abbiamo circa 7 milioni e mezzo, 8 milioni di lavoratori che, come dire, forniscono direttamente i servizi, quindi sono dei fornitori diretti della famiglia. È evidente che si sa in quali aree si annida maggiormente il non dichiarato, e quindi senza andare a violare troppo la privacy. No, no, esatto, però bisognerebbe cambiare le priorità, per così dire, dell'Agenzia delle Entrate. Io aggiungo che se rimaniamo ai ritmi di 15 miliardi di euro, che sono quelli dichiarati da proventi, da lotta all'evasione, che bisogna poi scalare, perché il più di questi 15 miliardi sono in realtà inerziale da contenzioso, non sono accertamento di nuovi redditi, ma a questi ritmi noi il gap, certo, per coprire il sovraccosto rispetto a quello che lo Stato raccoglie per milioni di italiani, e penso soprattutto ai giovani e al loro futuro, non ce l'abbiamo. Questa è la tragica evidenza di questi numeri. Speriamo che la politica ci pensi e ci dia risposte adeguate invece che pensare ai bonus che valgono 3 mesi per le elezioni, ma questa è la mia opinione. Io intanto ringrazio Alberto Brambilla per il lavoro che fa, per i numeri che ci dà, e vi do appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva.